Focus Economia. Buonasera a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti a questo nuovo appuntamento con i temi economici della giornata. Oggi, sapete bene, si gioca un'importante partita europea, non mi riferisco a Italia-Germania, altrettanto importante, ma al vertice europeo molto atteso a Bruxelles. Mario Monti gioca a Bruxelles questa sua partita insieme agli altri leader, capi di Stato e di governo. Questo sarà uno dei temi di oggi, ma parleremo e sarà la nostra apertura anche delle previsioni di Confindustria, che oggi ha diffuso stime più pessimiste delle precedenti, con un pareggio di bilancio che si allontana. Poi la relazione della Corte dei Conti. Parleremo anche dei mercati, ovviamente, che oggi sono stati ballerini per quasi tutta la giornata, con un occhio chiaramente al vertice di Bruxelles. In questo istante vi anticipo che il FTSE MIB è intorno alla parità più 0,14%, FTSE Italy Share proprio più 0,00, e quindi in attesa, diciamo, Milano, di quello che accadrà. Francoforte è la peggiore in Europa con un calo dell'1,65%, Parigi dello 0,77%, Londra meno 1,38%. Va male anche Wall Street quest'oggi, il Dow Jones c'è dell'1,19%, mentre il Nasdaq cala dell'1,52%. Dicevamo mercati, ma anche i guai di Barclays, la banca inglese ha subito oggi un calo pesante in borsa a Londra dopo alcune notizie che la riguardano. Questi i principali temi, ma vediamo un po' quali sono le notizie in breve. Allora, oro in rialzo a $1,575, petrolio in rialzo a New York a $80,72. In America il PIL americano del primo trimestre è cresciuto dell'1,9%, e questo comunica il Dipartimento del Commercio. Il dato è in linea con le attese. Sempre dagli Stati Uniti la notizia che la Corte Suprema ha promosso l'intera riforma sanitaria varata dall'amministrazione Obama nel 2010, compreso l'obbligo per la maggioranza degli americani di avere un'assicurazione medica. E quindi un'enorme vittoria, diciamolo, per il presidente statunitense, il cui intervento è atteso proprio a minuti. Sempre dagli Stati Uniti, le perdite della banca JP Morgan legate a scommesse andate male del Chief Investment Office di Londra potrebbero raggiungere i $9 miliardi, una cifra decisamente superiore ai $2 miliardi inizialmente stimati, e così riporta il New York Times. E ancora banche, e parliamo ancora di Londra con Barclays, l'abbiamo detto, la banca oggi ha ceduto, è arrivata a perdere in borsa oltre il 15%. L'amministratore delegato Bob Diamond sta subendo le forti pressioni dei parlamentari del Regno Unito, che ne chiedono le dimissioni dopo che la banca da lui diretta è stata multata per $451 milioni, circa €563 milioni. L'accusa è tentativo di manipolare il tasso interbancario dei prestiti, indice di riferimento per calcolare il costo di 350 miliardi di prodotti finanziari. E di questo, di Barclays, parleremo proprio dopo le 17:30. Il vertice europeo che si è aperto con un giallo. Oggi, secondo il Wall Street Journal, il ministro dell'economia tedesco Schäuble ha detto praticamente che la Germania si presenta a questo vertice cruciale per l'Europa, lo sapete, con segnali di apertura su scudo anti-spread e eurobond, a patto che ci sia una maggiore condivisione dei controlli. Schäuble ha detto anche che deve esserci un garante, una sorta di zar europeo del bilancio con ampi poteri a Bruxelles sulle finanze dei singoli paesi. Insomma, sembrerebbe un'apertura forte della Germania, stando alla lettura del Wall Street Journal. Ma cosa è successo? Appena questa notizia è stata diffusa da questa parte dell'oceano, c'è stata una smentita dalla Germania. Nella posizione tedesca non è cambiato nulla, solo alla fine di un processo verso una vera e stabile unione fiscale si potrà parlare anche di una gestione comune del debito. E così, insomma, ha spento gli entusiasmi nel pomeriggio Schäuble. E poi la Spagna, vola al 7% il tasso sui titoli spagnoli a 10 anni per la seconda volta negli ultimi 8 giorni. Lo spread Madrid-Berlino sale quindi a 543 punti base. L'Italia con i rendimenti in lieve rialzo nell'asta di BTP a 5 e 10 anni. Il Tesoro ha venduto titoli per complessivi 5,4 miliardi, poco meno del target di 5,5 miliardi, con il tasso sul BTP quinquennale in rialzo al 5,84% dal 5,66 di maggio e sul decennale in crescita al 6,19 dal 6,03 del mese scorso. I tassi dei BTP a 5 e 10 anni, sebbene saliti solo lievemente, toccano i massimi da dicembre. E lo spread italiano tra il BTP decennale e il Bund tedesco è sceso a 466 punti dopo l'asta del Tesoro. Aveva superato, prima di quest'asta, i 470 punti. I prezzi, il tasso di inflazione in Italia annuo a giugno è risalito, passando al 3,3% dal 3,2% di maggio, lo rileva l'Istat nelle stime preliminari, indicando un aumento dei prezzi su base mensile dello 0,2%. La principale spinta arriva dall'aumento congiunturale dei prezzi degli alimentari non lavorati. E ancora riguardo ai prezzi, il carrello della spesa, il cosiddetto carrello della spesa, ossia i prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza, dal cibo ai carburanti a giugno, è rincarato a più 4,4, prezzi della frutta fresca a giugno a più 9,6 su maggio. Le notizie che arrivano dalla Corte dei Conti. Sui conti pubblici, dice la relazione sul rendimento generale dello Stato, i risultati conseguiti in termini quantitativi appaiono impressionanti, ma non basteranno, lo ha detto il presidente di sezione della Corte dei Conti, Luigi Mazzillo. La Corte dei Conti si è espressa anche sull'evasione fiscale, tra l'altro di tutto questo ne parleremo alla fine di quest'ora, intorno alle 17.45, ha detto la Corte dei Conti. Sul piano della lotta all'evasione fiscale e della riscossione coattiva è stato dispiegato uno sforzo straordinario, sono stati conseguiti risultati altrettanto straordinari, ma lo zucchero duro è stato appena scalfito. Il deficit è stato ridotto, il debito è in discesa, parlo ancora di quello che si legge sul rendiconto generale dello Stato, ma ciò è avvenuto, scrive ancora la Corte dei Conti, a prezzo di pesanti sacrifici a carico delle famiglie, soprattutto delle classi medio-basse e delle imprese. E ora parliamo di Fiat. Oggi ha parlato l'amministratore delegato di Fiat Sergio Marchionne, ha detto che la quota di Fiat in Chrysler salirà di un altro 3,3%, lo ha detto dalla Cina. E dalla Cina ha parlato anche proprio della produzione in Europa, in una fabbrica cinese, ha detto Marchionne, la fabbrica potrebbe produrre in futuro anche per l'esportazione in Europa. Sulla questione Pomigliano si è espresso così: questa legge non esiste in nessuna parte del mondo, da quanto ne so. Focalizzare l'attenzione su questioni locali ignorando il resto è attitudine dannosa. Un evento unico che interessa un particolare paese che ha regole particolari che sono folcloristicamente locali. E ora andiamo al nostro tema di apertura di Focus Economia di oggi, che è quello della situazione in Italia. Dopo questi dati di Confindustria, anche se non siamo in guerra, si legge nel rapporto del Centro Studi di Confindustria, i danni economici fin qui provocati dalla crisi sono equivalenti a quelli di un conflitto e a essere colpite sono state le parti più vitali e preziose del sistema Italia. Così abbiamo letto anche di stime che sono state abbassate per quanto riguarda il PIL, il nostro benessere, il pareggio di bilancio. E di tutto questo ha parlato anche il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, sentiamolo. I dati veramente negativi che ci confermano quello che peraltro avevamo già capito da privati cittadini, siamo in piena recessione e non ne usciremo tanto rapidamente. Io sono un europeista totale, quindi se si prenderanno i provvedimenti giusti credo che ci sarà un cambiamento in meglio. L'importante è che si prendano dei provvedimenti con determinazione e che poi li si porti avanti. Allora abbiamo sentito la voce del presidente di Confindustria. Abbiamo in diretta il direttore del centro studi di Confindustria, Luca Paolazzi. Buonasera a te. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Luca, normalmente chiaramente noi diamo del lei ai nostri interlocutori, ma tu sei un ex giornalista del Sole 24 Ore e anche una persona che sentiamo spesso a Focus Economia, quindi mi permetto di darti del tu perché ci conosciamo bene. Allora, la crisi come una guerra, sono state colpite le parti vitali del paese, così? Sicuramente se misuriamo i danni economici effettuati da questa doppia recessione, quella molto, molto violenta che è cominciata nella fine del 2007 ed è finita a metà del 2009, con un calo accumulato del PIL di oltre il 7%, e quella che stiamo vivendo adesso con un calo del PIL che sarà diciamo dell'ordine del 2,7% se mettiamo insieme l'anno in corso e il prossimo. Francamente un calo del PIL di queste dimensioni non si è mai visto in tempi di pace, e quelli che sono stati colpiti sono i giovani in termini di posti di lavoro, di occupazione, prospettive occupazionali, e il settore manifatturiero, che è quello più esposto al calo della domanda all'interno dell'intera Unione Monetaria Europea, non soltanto in Italia. Tu citi giustamente l'Europa, insomma il contesto. Quanto può pesare l'esito del Consiglio europeo di oggi e domani, di cui parleremo alle 18.30? Ma credo francamente che questo Consiglio non finirà né oggi né domani, ma finirà alla mezzanotte del 1 luglio. I temi sul tappeto sono importantissimi, sono vitali, e le divergenze sono ancora molto ampie. E quindi credo che ci vorranno i tempi supplementari, per usare una metafora calcistica, e solo in zona Cesarini, prima della riapertura dei mercati, si arriva a un dunque, e deve essere un dunque però questa volta importante. Non ci sarà la possibilità di annunci soltanto o addirittura annunci che poi vengono smentiti da dichiarazioni e da quella che oggi è stata chiamata da un relatore al nostro seminario cacofonia, perché i leader europei parlano lingue diverse, interpretano in modo diverso le stesse cose, e quindi di fatto danno la sensazione di una totale mancanza di leadership e di una disgregazione che è politica ancor più che finanziaria ed economica. Questo non possiamo permettercelo, le conseguenze sarebbero gravissime, le perdite in termini di aziende, risparmi, posti di lavoro, e non parlo dell'Italia, parlo dell'Unione Europea nel suo insieme, compresa la Germania, sarebbero enormi. Il ministro Passera ha ricollocato queste vostre previsioni all'interno dell'Europa, ma ci sono delle specificità, diciamocelo, italiane, come la zavorra della burocrazia. Quanto costa alle imprese? Ma il costo è stato stimato in termini semplicemente di adempimenti in 28 miliardi, ma questo sono, come direbbero gli americani, peanuts, noccioline. In realtà il costo vero è quello del non decidere, del rinviare sempre, del costringere gli imprenditori a utilizzare delle loro energie migliori, anziché a fare impresa, a inventare nuovi prodotti, a conquistare nuovi mercati, a dover lottare con dei permessi e soprattutto con delle non risposte, né positive né negative. 6 anni per avere permesso di costruire diciamo un grande magazzino, 11 anni e poi gettare la spugna per un rigassificatore, 3 anni per avere il permesso di ampliamento di un impianto chimico che non inquina. Sono tempi che in altri paesi non esistono e che sopprimono la voglia di fare impresa e la crescita del nostro paese. Poi ci sono altre specificità, se vogliamo meno gravi, più contingenti. Questa di cui abbiamo parlato adesso è qualcosa che mina la crescita italiana da tantissimi anni, e peraltro diventa anche fonte di corruzione, perché nella misura in cui c'è un potere di veto continuo diventa più facile poi esigere dei pagamenti illegali. Ma detto questo, poi ci sono degli elementi tipo contingenti. Le famiglie italiane stanno tirando i remi in barca in questa fase, perché dopo 2 anni, 3 anni in cui hanno tenuto, anzi hanno aumentato la loro spesa a fronte di un reddito che calava, un reddito disponibile che calava, perché i posti di lavoro non crescevano più come prima, le retribuzioni reali sono ristagnate e c'era un aumento della pressione fiscale, dopo 3 anni così e di fronte, diciamo, al riaffacciarsi a una nuova recessione dalla metà dell'anno scorso, si sono spaventate, e ripeto, dalla metà dell'anno scorso, quindi prima che entrassero in vigore le ultimissime norme di aumento ulteriore della pressione fiscale, hanno cominciato a ridurre i consumi per adeguarli alla loro capacità di spesa. Questo comportamento continuerà perché la forbice è ancora ampia e questo significa appunto una botta violenta alla domanda interna. Tu hai citato la pressione fiscale, leggo dal vostro studio che schizzerà quella reale al 54,6% nel 2013 dal 54,2% del 2012. Insomma, un peso consistente, questa è una vera zavorra. Beh, sicuramente lo è, la specificità italiana è che molto elevate, anche per fasce di reddito basse, a fronte di un'evasione fiscale che non è uguale nei paesi avanzati, nei maggiori paesi avanzati. Quindi c'è un problema di redistribuzione del carico con abbassamento delle aliquote senza per questo abbassare la pressione, come che noi chiamiamo apparente, che è un dato puramente statistico che raffronta il totale delle entrate e degli incassi della pubblica amministrazione al PIL nel suo complesso. È apparente perché il PIL ricomprende anche il sommerso e quindi sono, diciamo, due grandezze non confrontabili. Di fare questo errore, appunto, dal PIL togliamo la parte di sommerso. Dobbiamo assolutamente agire e per agire occorre tagliare la spesa. Abbiamo fatto una simulazione, nelle nostre previsioni incorporiamo, perché fa parte di una legge dello Stato, l'aumento ulteriore dell'IVA previsto dal 1 ottobre. Abbiamo fatto la simulazione, abbiamo provato a vedere che cosa succede se invece di aumentare l'IVA si riduce la spesa attraverso la famosa spending review e quindi si aumentano i risparmi in questo modo per il pubblico, e abbiamo visto che avremo un PIL più alto di uno 0,24% l'anno prossimo, che è più o meno l'entità del calo che noi prevediamo al nostro PIL, e dei consumi più alti di uno 0,5% e 27.000 posti di lavoro in più. Quindi penso che si debba muovere in quella direzione. Un'ultima cosa, anche perché la linea è abbastanza instabile in quest'ultima parte. Il benessere degli italiani in 6 anni di crisi, voi calcolate un calo del 10%, così? Beh, in realtà è quello che ho detto prima, è il PIL totale, che se ci mettiamo dentro la recessione 2008-2009 e questa 2011, perché è cominciata nel 2011 e finirà alla fine di quest'anno, quindi fino alla fine 2012, più o meno quella l'entità. Però se ci mettiamo dentro anche che nel frattempo la popolazione è aumentata, perché non sta aumentando per effetto dell'immigrazione di uno 0,3-0,4% l'anno, il PIL pro capite, il per abitante, che è la misura principe del benessere, scende ancora di più. Grazie a Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi di Confindustria, che ci ha illustrato questi dati, queste stime pessimistiche di Confindustria. Beh, se vuoi, anche se devo dire una cosa, queste stime si basano sul fatto che fuori da questo vertice si esca con un risultato positivo. E quindi dalla fine di quest'anno, i problemi europei vengano risolti. Da questo punto di vista facciamo un'assunzione che è molto più ottimistica di quella che fanno i mercati finanziari o di quello che fanno la maggior parte degli analisti internazionali in questo momento. Grazie Luca. Grazie a voi. E queste erano dunque le stime di Confindustria, con anche un assaggio di ciò che ci aspettiamo che possa accadere a Bruxelles, che avremo un aggiornamento su tutto questo intorno alle 18:15 dal nostro corrispondente a Bruxelles Sergio Nava e dalla corrispondente del Sole 24 Ore Adriana Cerretelli. Vedremo che cosa sta succedendo. Intanto diamo uno sguardo a quello che accade invece sui mercati, dove ancora Francoforte è la peggiore, -1,4%, Parigi -0,50%, Londra -1,27% e Milano invece in questo momento è in rialzo con il FTSE MIBA +0,5%, il FTSE Italia Share +0,33%. Abbiamo visto che durante tutta la giornata le borse sono state ballerine, con un occhio ovviamente al vertice europeo, alle attese che si hanno per il futuro dell'euro, per la sopravvivenza dell'euro, euro che rispetto al dollaro ora quota 1,24,40. Per ora è tutto, subito dopo la nostra pausa invece continueremo più approfonditamente come sempre a parlare di mercati e dei titoli. Bentornati a Focus Economia da Valentina Furlanetto, sono le 17:31 minuto 40 secondi, ora è il momento della borsa. Io do il benvenuto ad Andrea Fontana, il collega delle radio con il Sole 24 Ore, buongiorno, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera a te, che ci aiuti quest'oggi a capirci un po' di più in queste borse ballerine, appunto come abbiamo detto, che durante la giornata sono scese, poi sono risalite, adesso mi sembra una chiusura positiva, inaspettatamente forse per Milano, è così? Sì, veramente una giornata di estrema volatilità, come tu dicevi, si guarda tutti a Bruxelles e a quello che potrebbe avvenire, potrebbe venire fuori dal summit europeo, un'estrema volatilità da cui si sono salvate, diciamo così, forse paradossalmente Milano e Madrid, che in chiusura gli indici non sono ancora definitivi, sono però le uniche due piazze europee positive. Addirittura Madrid segna più 0,8, Milano più 0,7, mentre gli altri sono tutti negativi, così lo è Wall Street. C'è qualche operatore che ha anche interpretato le mosse fatte dall'Italia e la fiducia che è arrivata in questi giorni anche nelle dichiarazioni verso il Premier Monti come la possibilità che da Bruxelles esca qualche concessione, qualche mossa a favore proprio dall'Italia, per cui che Monti ritorni da Bruxelles con in tasca qualche buon risultato per l'Italia. La riforma del lavoro approvata va in questa direzione, nel senso di una Italia che ha fatto i compiti e potrebbe tornare da Bruxelles un po' più favorita, ma diciamo che poi ci sono state anche tante coperture su titoli che erano stati dimenticati e le banche italiane, a parte il Monte dei Paschi, si sono abbastanza difese in una giornata in cui invece il settore bancario del resto d'Europa è andato molto male, soprattutto per le questioni Barclays e Commerzbank, e ha perso il 3%. Sì, restando sugli indici vedo Francoforte ancora in calo, la peggiore dell'1,31%, insomma verrebbe da dire che Italia-Germania almeno in borsa per oggi è vinta dall'Italia. Parigi meno 0,44%, Londra appesantita penso da Barclays in larga parte e dalle banche come tu dicevi a meno 1,21%, male anche tutti gli indici negli Stati Uniti. Ma andiamo nello specifico a Milano, male vedo Monte dei Paschi, chiaramente ieri è stato presentato il piano industriale con tagli a filiali e personale e ricorso ai prestiti di Stato, e chiaramente questo ha influito sul titolo che ha ceduto il 3,5, così? Sì, certamente ieri quando sono emersi le prime indicazioni sul piano industriale, il titolo ha un po' naturalmente rimbalzato, reagito positivamente, ma è chiaro che poi dopo il mercato è andato a guardare dentro il piano industriale, è andato a guardare gli elementi che tu ricordavi, i tagli al personale, la necessità di un aumento di capitale che verrà deliberato in un'assemblea nell'autunno da 1 miliardo, e quindi insomma il mercato è tornato a penalizzare questo titolo già molto penalizzato, meno 27% dall'inizio dell'anno, e un po' a ruota ha seguito anche UbiBanca e alcuni titoli delle popolari. Sì, UbiBanca vedo meno 2%. UniCredit invece, per restare fra i bancari, oggi è andata bene, ha chiuso con un rialzo del 3,8%. In questo senso cosa ha interessato gli investitori? Gli investitori sono concentrati a capire quelle che sono le mosse di questo fondo Pamplona, fondo londinese, ma che potrebbe avere capitali in gran parte provenienti dall'Europa dell'Est e dalla Russia in particolare, che ha dichiarato ufficialmente di essere salito oltre il 5% attraverso un'operazione finanziaria in cui è stato coinvolta anche Deutsche Bank. E naturalmente una mossa sorpresa che fa speculare, diciamo, il mercato sulle intenzioni di Pamplona o di altri investitori esteri, che certamente rimette al centro UniCredit come istituto molto penalizzato, dall'inizio dell'anno ha perso oltre il 70%, e quindi fa anche pensare a una certa attenzione dall'estero per questo titolo, e fa sperare in altre operazioni di questo tipo. Ne hanno parlato anche organi di stampa di questi interessi per i nostri gioielli, tra cui anche Unicredit, nella non auspicata debolezza dell'Italia in questo senso. Per quanto riguarda Ansaldo, vedo che la peggiore del listino in chiusura, -5,7%. Sì, per quanto riguarda Ansaldo c'è stato un po' un'indicazione positiva da parte di alcune case d'affari che non sono appunto positive per quanto riguarda lo scenario macroeconomico, ma soprattutto anche del settore che è quello delle attrezzature per infrastrutture, in particolare per i sistemi ferroviari, che è il settore caratteristico di Ansaldo. C'è chi vede possibile taglio degli investimenti pubblici e quindi un certo pessimismo sulle prospettive di medio periodo che hanno fortemente penalizzato il titolo oggi. Fonsai, sulla parità domani c'è il CDA, che è abbastanza decisivo. Male andata Telecom Italia Media, sembra che Sky non sia interessata all'acquisto. Certamente tutti stiamo cercando di capire chi realmente è interessato, sembra più una gara a tirarsi fuori che a mettersi dentro. Il titolo oggi ha perso lo 0,7, oggi ufficialmente Sky ha detto abbiamo ricevuto la documentazione per la 7, appunto controllata di Telecom Italia Media, la guarderemo, ma non vi aspettate che ci sia un forte interesse da parte di Sky ad acquisire la 7, per cui insomma se il titolo era salito ed era stato al centro delle attenzioni quando iniziavano a circolare i nomi dei possibili interessati, ora questa gara a togliersi già il finanziere franco-tunisino Tarak Ben Ammar nei giorni scorsi si è tirato fuori dalla gara, lo stesso fa Sky, è chiaro che il titolo un po' ne risente, oggi ha perso lo 0,7. E tra gli altri temi di oggi è andata bene ST Microelectronics +1,43%, in questo caso a cosa sono dovuti gli acquisti? C'è un po' di rimbalzo, un titolo che è stato molto penalizzato nelle ultime 2-3 sedute dall'allarme sugli utili che è arrivata dalla concorrente tedesca Infineon, che aveva penalizzato moltissimo naturalmente Infineon e di conseguenza anche ST Microelectronics. Oggi un giorno un po' più di tranquillità, dove diciamo queste indicazioni negative sono un po' dimenticate o messe da parte perlomeno dal mercato, e c'è stato un po' di riacquisto che ha permesso al titolo di salire sopra 4,1 euro per azione. Andrea, per chiudere, tornando invece agli indici, ho visto che Wall Street ha avviato la seduta in rialzo, c'è stata questa revisione del PIL in linea con la prima revisione, poi richieste di sussidi di disoccupazione calate oltre le aspettative, insomma cos'è accaduto perché gli indici hanno girato in negativo? Veramente ha pesato la sentenza della Corte Suprema sulla riforma sanitaria del presidente Obama? È difficile in una giornata così volatile andare ad individuare quale elemento abbia fatto girare l'andamento di Wall Street. Certamente le indicazioni che sono arrivate sul fronte macroeconomico non sono straordinariamente positive, anche se confermano alcuni trend che già c'erano, e direi che attribuire questo elemento alla Corte Suprema sembra un po' tanto, soprattutto perché la giornata è stata estremamente volatile e perché Wall Street, come per l'Europa, ha visto flessioni consistenti, ad esempio di titoli finanziari, penso a JP Morgan, certo, e a Bank of America ad esempio, quindi un po' difficile attribuire a un solo forse elemento. Forse più i bancari. Esatto. D'accordo, grazie mille ad Andrea Fontana di Radio Corriere Sole 24 Ore, nostro collega che ci ha aiutato a capire qualcosa di più dell'andamento delle borse oggi, e restiamo in temi borsistici, spostandoci un po' sulla piazza di Londra, che come abbiamo visto va male anche per il peso dell'andamento di una banca, la seconda banca più importante del Regno Unito, Barclays, che come dicevamo ha ceduto oltre il

nuovi poteri, perché chiaramente dietro un caso del genere, come d'altra parte l'opposizione ha manifestamente denunciato, c'è il sospetto che si possa arrivare a una dimensione penale. Insomma, chi ha guadagnato da questa operazione? È stato un comportamento, come dire, appunto criminale, oppure no? Questo è un punto che non è ancora stato del tutto chiarito, però è evidente che la credibilità del banking, che in Inghilterra, nonostante sia centrale per l'economia di questo paese, è a pezzi dai giorni del credit crunch in poi, è tornata immediatamente al centro dell'attenzione popolare. E vedremo cosa accadrà. Grazie intanto a Leonardo Maisano, corrispondente da Londra del Sole 24 Ore, per averci raccontato questa storia che ci parla di Londra, ma anche della situazione, come diceva, delle banche, della situazione delle banche non soltanto a Londra, ma un po' ovunque. Tra poco parleremo del settore dell'elettronica, così importante per il nostro paese, per la nostra industria. Adesso facciamo una breve pausa. Bentornati a Focus Economia, sono le 17:48 e 11 minuti. Ovviamente abbiamo anche noi un occhio sempre a Bruxelles su quello che sta accadendo al vertice europeo e quello che sarà il futuro dell'euro e dell'Europa. Ne torneremo a parlare dopo il GR e insieme a questo parleremo anche di notizie più di casa nostra, ossia della Corte dei Conti, di rendiconto generale dello Stato da parte della Corte dei Conti. Adesso invece ci concentriamo su un settore specifico della nostra industria, ossia l'elettronica e l'elettrotecnica. E perché ieri si è svolta l'assemblea annuale dell'ANIE, che è l'associazione del settore. Sebastiano Barisoni ha intervistato il presidente Claudio Andrea Gemme, chiedendogli innanzitutto se si possa dire che il 2011 è stato salvato dal buon andamento dell'export. Ma salvato no, c'è stata ha mitigato il danno. Una tenuta con una crescita del 5,5%, se però guardiamo quanto avevamo registrato l'anno precedente, la crescita era stata due cifre, più 12,7%, quindi comunque c'è stata una tenuta delle esportazioni, però chiaramente se facciamo i raffronti con gli anni precedenti c'è stato un calo. Di quanto siete sotto rispetto al 2007, cioè all'anno pre-crisi, come produzione industriale? Il picco ciclico è stato effettivamente là, quindi se ci riferiamo a quel periodo almeno 20 punti percentuali. C'è un 20% in meno nella produzione, esatto, del settore elettrotecnico ed elettronico rispetto al picco del 2007. E l'andamento occupazionale, visto che da voi lavorano quasi 500.000 di persone, che vuol dire più o meno 1,5 milioni, 2 milioni di famiglie coinvolte. Sì, diciamo che C'è un dato importante che comunque è stato, diciamo, l'asse portante che ha aiutato il settore a continuare a svilupparsi, è l'incidenza media della spesa in ricerca e sviluppo, che è stata mantenuta abbastanza alta, il 4% in percentuale, e che ha occupato almeno nei settori tecnologici più avanzati, che siamo noi, un numero di persone importanti nella ricerca e sviluppo, che ha compensato, diciamo, alcune valli che si sono create a livello produttivo. In generale c'è una stagnazione. Le imprese, devo dire, che stanno ancora combattendo, perdere risorse di alto valore che producono alto valore aggiunto, per partire dagli operai fino agli ingegneri, tutti quanti nel settore hanno effettivamente, danno un grande contributo. Non è facile portare una risorsa ad arrivare a capire esattamente il ciclo produttivo, allora piuttosto si perdono margini, ovviamente il fatturato, l'abbiamo già detto, lo stiamo perdendo, per uno cerca di tenere le risorse. Non credo che riusciremo a dare continuità a questa azione nel prossimo periodo, perché se non arrivano, certo, segnali di crescita non ci saranno possibilità di trattenere le risorse. Ecco, a questo, quindi, diciamo, dovrete aumentare, insomma, gli esuberi, i licenziamenti. Parlare di esuberi, se non riuscite a mantenere le risorse, diciamo che il ricorso alla cassa integrazione sarà sicuramente uno strumento che vedremo, ahimè, di nuovo percorso da molte delle imprese. I piccoli e medi soffrono, soffrono le grandi, e quindi credo che il ricorso alla cassa integrazione ordinaria sia sostanzialmente nel primo periodo il passaggio obbligato. Ecco, voi avete presentato in occasione dell'assemblea questa mattina anche un'indagine sulla situazione creditizia delle imprese del settore. Sì. E i dati cosa dicono, visto che abbiamo appena avuto il ministro Passera nostro ospite? Ma i dati dice che continua la sofferenza. Effettivamente dire che nel percorso di crescita delle imprese un milestone fondamentale è avere remunerato il proprio investimento, hanno pagato i propri crediti fondamentali. Se si arriva a 200 giorni e lo sblocco non è che sia così immediato vicino, io credo che ci sia presto un ulteriore grande problema, cioè non si può continuare a mantenere con le piccole imprese il sistema, quindi nel corso della crisi la domanda che abbiamo fatto è se le nostre imprese hanno continuato ad investire, malgrado la recessione sì, le imprese hanno continuato ad investire, addirittura il 91% delle aziende intervistate in modo virtuoso hanno detto di sì, però il fatto, la correlazione tra la cessione del lavoro, il calo degli investimenti e ahimè il fatto che quando lavori non ti pagano, devo dire che c'è un mix esplosivo, no? Quindi, Tra l'altro appunto interessante che per il 66% delle vostre imprese intervistate il problema fosse quello bancario, cioè il credit crunch, e poi invece anche la complessità burocratica delle procedure nell'ottenere i prestiti, ma al numero uno appunto la diffidenza degli istituti ad erogare finanziamenti, 7 su 10 hanno risposto che era quello il primo problema. Concludiamo su un altro elemento, perché voi avete chiesto al vostro campione anche quali iniziative dovrebbe prendere il governo per aiutare la ripresa, e mi sembra che anche qui il consenso sia abbastanza diviso tra ridurre la pressione fiscale da un lato e aumentare gli investimenti in infrastrutture. Ah, certamente, poi è sicuramente un punto fermo. Io poi in particolare ho esteso questo progetto cercando di indicare una platea molto attenta, eccetera, quali potevano essere a breve delle attività. Io ho indicato nella manutenzione degli impianti esistenti un percorso dove nessuno chiede nulla al governo, eccetera, ma se si avviasse questo processo sulla manutenzione degli impianti, io dico, abbiamo un parco energetico installato vecchio, le case hanno bisogno di manutenzione, quindi lavoro per i civili, ma anche per le imprese tecnologiche che possono mettere in sicurezza le case. Quindi lo stimolo è venuto ovviamente nella mia presentazione dal censimento. La proposta è dire, in attesa di un piano energetico, un piano infrastrutturale, guardiamo l'esistente. È sicuramente una possibilità per tutti noi di trovare immediatamente sfogo e di lavorare su un parco esistente. Ho fatto anche cenno al recente problema che abbiamo avuto, il terremoto, l'Emilia, eccetera, dove sicuramente le imprese del nostro settore possono dare un contributo, e quindi devo ricostruire, ma costruiamo con delle logiche dove dal punto di vista del sistema dell'automazione, dell'house building, ci siano delle possibilità reali e concrete per migliorare il nostro parco, non solo tradizionale ma anche quello storico. Questa era l'intervista di Sebastiano Barisoni prima del nostro GR, un'agenzia appena battuta da poco, che riguarda la Fiat, che farà ricorso contro la decisione del Tribunale di Roma circa il reintegro dei 145 operai di Pomigliano. La sentenza dà ragione alla Fioma sulla discriminazione, obbliga la Fiat alla riassunzione di questi lavoratori nello stabilimento, un evento unico che interessa un particolare paese, ha detto Sergio Marchionne dalla Cina, dove si trova, paese che ha regole particolari che sono folcloristicamente locali. Poi ha aggiunto, nel corso della sua storia Fiat non ha mai deviato dall'obbligo nei confronti del rispetto della legge, continueremo a farlo, Fiat rispetterà la decisione del tribunale come ha sempre fatto. Posso dire che la decisione, ha detto ancora Marchionne, è in mano al nostro staff legale, che presenteremo appello contro la pronuncia della Corte, non importa quello che io penso. E questo era Sergio Marchionne sulla Fiat dalla Cina, dove è andato a inaugurare uno stabilimento. Dopo il nostro GR invece parleremo di ciò che paese di che pensa, scusate, di questo paese la Corte dei Conti. Bentornati a Focus Economia. Oggi parliamo, in questa seconda parte di Focus Economia, di quanto pesa la corruzione, l'evasione fiscale in Italia. E lo facciamo perché abbiamo avuto dei dati dal rendiconto generale dello Stato da parte appunto della Corte dei Conti. Sapete quanto lievitano i costi delle grandi opere a seguito della corruzione? Del 40%. Questo è uno dei dati che si evincono dalla lettura appunto del rendiconto generale dello Stato da parte della Corte dei Conti. Per noi c'era Alessandra Schepisi e lei ha raccolto alcune di queste voci che vi faremo sentire, tra cui quella del procuratore generale della Corte dei Conti Salvatore Nottola, che parla proprio in questa prima parte di corruzione. Sui costi della corruzione si sono dette le cose più varie, si sono anche indicate cifre che però sinceramente non si sa bene da dove sono scaturite. Si è parlato per esempio di 60 miliardi di euro di costi per lo Stato, però ecco, di questi 60 miliardi di euro sinceramente non si conosce bene l'origine di questa informazione. Il costo è sicuramente notevole e dipende da tante cose. È stato calcolato ad esempio, e questo è stato calcolato con sicurezza, che alcune opere, grandi opere, aumentano di circa il 30-40% rispetto alle previsioni originarie. Che questo dipenda da cattive progettazioni, da incidenti di percorso, oppure, come è presumibile, anche in buona parte dalla necessità di ricavarne anche il prezzo della corruzione, non è comunque assodato, però esiste questo dato. I costi più, diciamo, evidenti e più rilevanti sono quelli indiretti. C'è il costo, per esempio, che dipende dal fatto che gli investitori stranieri hanno esitazione a investire in Italia, hanno esitazione a stabilire attività economiche in Italia, attività industriali, perché hanno il timore di dover assoggettarsi a questi prelievi forzosi. Insomma, avete sentito cosa dice Nottola sulla corruzione, e adesso sentiamo cosa dice Luigi Mazzillo, il presidente di sezione della Corte dei Conti, riguardo all'evasione fiscale. E questo perché queste due parti, diciamo, sono quasi una conferma della relazione di oggi di Confindustria. Insomma, le due zavorre dell'Italia più forti sarebbero la corruzione e l'evasione fiscale. La pressione fiscale è elevata, la massa di risorse acquisita con il prelievo tributario è massiccia, sul piano della lotta all'evasione e della riscossione coattiva è stato dispiegato uno sforzo straordinario e sono stati conseguiti risultati altrettanto straordinari. Ma lo zoccolo duro è stato appena scalfito. Occorre basarsi sull'analisi del rischio e programmare di conseguenza i controlli. Vanno consolidati i risultati dell'attività repressiva, monitorando i comportamenti successivamente tenuti da parte di chi è stato sottoposto a controllo. Vanno premiati ed aiutati i comportamenti adesivi. Vanno evitate le esasperazioni dei controlli formali e le trappole della minuta e vessatoria regolamentazione che vi sono associate. La Corte dei Conti, la magistratura contabile, ha parlato anche dei tagli che sono stati fatti. Nel breve termine la spesa statale locale, si legge nella relazione, è stata ridotta a livelli che non sarà agevole, in alcuni casi persino non auspicabile, mantenere per lunghi periodi. Il deficit è stato ridotto, il debito è in discesa, ma ciò è avvenuto a prezzo di pesanti sacrifici. Sentiamo il procuratore generale Nottola. Le manovre che si sono susseguite fin dal 2010 avrebbero dovuto realizzare una strategia voluta dall'Europa di riduzione del disavanzo mediante l'intervento su alcune tipologie di costi attinenti al funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché il contenimento della spesa previdenziale e di quella assistenziale, la riduzione dei costi delle autonomie territoriali e della politica, la lotta all'evasione fiscale e la tracciabilità dei movimenti in contanti. Non tutti gli obiettivi perseguiti possono dirsi raggiunti. Mentre complessivamente si deve rilevare, come ha anche osservato la Banca d'Italia, che se è vero che il disavanzo pubblico è stato effettivamente ridotto e il debito pubblico è tendenzialmente in discesa, ciò è avvenuto a prezzo di pesanti sacrifici, soprattutto a danno delle classi medio-basse e di un appesantimento proporzionale della pressione fiscale. In definitiva, di una sensibile compressione del reddito delle famiglie e della capacità di manovra delle imprese, che non può non influire negativamente sullo sviluppo. Peraltro, la situazione delle imprese non è alleviata dal ritardo con il quale la pubblica amministrazione provvede al pagamento di quanto ad esse dovuto. Per converso, risultano mancanti o insufficienti o in ritardo interventi correttivi strutturali, che pure erano previsti e che sarebbero significativi perché servirebbero a compensare in parte i sacrifici dei contribuenti non solo per il profilo della riduzione della spesa, ma anche per quello, altrettanto importante, dell'elevamento generale delle condizioni di vita e del miglioramento della stessa vita pubblica. Insomma, rigore, rigore, ma basterà? Sentiamo Luigi Mazzillo, che è presidente di sezione della Corte dei Conti. Anche lo scorso anno si è intervenuti con successo sulle quantità, abbattendo i livelli della spesa pubblica e del disavanzo. Anche oltre la percezione dell'opinione pubblica interna e internazionale, i risultati conseguiti in termini quantitativi appaiono impressionanti. Ma non basteranno, ed è un punto fondamentale nelle riflessioni della Corte, se da un lato non sia chiaro quale debba essere l'arco temporale di riferimento entro il quale inquadrare il giudizio sul controllo della spesa e dall'altro se non si interviene, per usare una metafora, per eliminare la polvere nascosta sotto il tappeto. Se non si interviene, cioè, per eliminare le persistenti zone grigie di scarsa trasparenza dei conti pubblici che lasciano intravedere potenziali rischi di emersione di oneri latenti. Ma soprattutto se non si interviene puntualmente sulla qualità dell'azione amministrativa per migliorare la capacità di gestire giorno dopo giorno la soluzione e la manutenzione dei problemi collettivi, vecchi e nuovi, utilizzando per orientarsi anche gli elementi che oggettivamente emergono dall'attività di analisi e di controllo della Corte. E poi Mazzillo ha detto: il governo è intervenuto nella riduzione della spesa con successo, ma anche al costo di effettive distorsioni e del rischio di avvio di un circolo vizioso per quanto riguarda la crescita. Insomma, il tema è sempre quello: rigore, tagli che però rischiano di strozzare la crescita, tema che ritorna anche in Europa, e proprio dopo la viabilità parleremo proprio di Bruxelles. E siamo di nuovo a Focus Economia e parliamo del vertice europeo, considerato cruciale, molta l'attesa per questo vertice, quasi quanto la partita di stasera Italia-Germania. E ieri Mario Monti ha alzato la posta, la Germania ha detto in pratica: il nostro premier approvi il meccanismo anti-spread proposto dall'Italia, in cambio avrà il sì alla Tobin Tax, cioè la sapete, la tassa sulle transazioni finanziarie. L'Italia può contare in pratica sull'appoggio di Parigi e Madrid. Monti è disponibile, sempre rimanendo a metafore calcistiche, ai tempi supplementari, come abbiamo visto. Se entro domani mattina non ci sarà l'accordo, il premier italiano chiederà quindi al Consiglio di continuare ad oltranza la riunione. Di mezzo c'è anche il fatto che domani Angela Merkel dovrà tornare a Berlino per la ratifica del Fiscal Compact e del nuovo fondo salva stati. Tra l'altro c'è stato un giallo, l'avete sentito anche nel nostro GR, l'abbiamo riportato all'inizio di Focus Economia. Wall Street Journal Journal ha pubblicato oggi un'intervista al ministro delle finanze tedesco Schäuble, dalla quale si capiva che la Germania era aperta improvvisamente agli eurobond. Poi invece oggi c'è stato un dietrofront del ministro della Germania che insomma ha smentito questa che pareva in effetti una notizia piuttosto consistente. Oggi l'apertura del vertice, ci sono stati degli incontri bilaterali tra Monti, il presidente francese Hollande, il presidente della Commissione europea Barroso. A Bruxelles per noi c'è Sergio Nava. Buonasera Sergio. Buonasera. Allora, ci puoi raccontare che cosa sta avvenendo? Ma in questo momento siamo ancora in una fase di estrema pretattica, potremmo dire, da quello che riusciamo a capire. I 27 leader stanno in questo momento parlando di crescita, il pacchetto per la crescita, che a dire la verità è l'ostacolo minore tra tutti i dossier sul tavolo. Si parla di 120-130 miliardi di euro, l'1% del PIL europeo, per rilanciare appunto investimenti, occupazione attraverso un aumento di capitale della BEI, attraverso anche di project bond su progetti specifici, attraverso il riorientamento di fondi strutturali. Soldi nuovi in realtà non ce ne sarebbero molti, si tratta di risistemare denaro che è già in circolo, comunque riallocarlo. È la questione più semplice, anche perché su questo pacchetto per la crescita c'è già l'accordo di principio, certamente non è abbastanza per calmare i mercati. Sergio, so che tu hai avuto occasione anche di raccogliere una battuta di Angela Merkel. Sì, Angela Merkel, che mi ricollego al discorso di prima, ha parlato entrando solo di questo aspetto, solo dell'aspetto della crescita, ha volutamente evitato i temi più controversi come appunto quelli dello scudo antispread o comunque anche degli altri temi relativi agli Eurobond. Sentiamo Angela Merkel. Wir werden heute am ersten Tag insbesondere über den Pakt für Wachstum und Beschäftigung sprechen. Ci occuperemo del patto per la crescita e l'occupazione. Abbiamo elaborato un buon programma, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti futuri, l'occupazione e i giovani. Spero che potremo varare questo patto già oggi per dare un forte segnale. Da un lato abbiamo bisogno di finanze solide, dall'altro di crescita e occupazione. L'Europa ha una percentuale di disoccupazione giovanile al 20%, troppo alta. Se vogliamo convincere i popoli d'Europa, dobbiamo creare più posti di lavoro, cominciando da oggi. E come tu dicevi Sergio e come avete sentito, Angela Merkel è stata molto lontana dai temi più spinosi in questo momento. Ci ha raggiunto Adriana Cerretelli, la corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Buonasera Adriana. Buonasera. Allora, sul piatto appunto ci sono questi 120 miliardi del pacchetto crescita, però ovviamente sotto traccia ci sono tutti questi temi, tra cui il tema proposto dal Mario Monti dell'anti-spread. Tu come l'hai letto questo giallo del pomeriggio sull'intervista al Wall Street Journal del ministro delle finanze tedesco? Ma secondo me è stata, come spesso accade, un malinteso, nel senso che certamente l'intervistatore non conosce un po' il linguaggio degli spread, il linguaggio che si usa in Europa, che è un linguaggio un po' tecnocratico e dunque forzato. Ma era abbastanza bizzarro che Schäuble dicesse una cosa e Merkel un'altra. Insomma, voglio dire, non si va al vertice in generale con delle posizioni così scoordinate su un argomento così scottante. Adriana, tu scrivi oggi sul Sole 24 Ore che in realtà c'è in ballo una contrapposizione proprio di DNA, di forma mentis di Germania e Francia. Assolutamente sì, nel senso che da una parte appunto la Germania vuole insistere sulla sua linea, che è una linea teoricamente coerente, nel senso che dice ci vogliono riforme, ci vuole rigore e soltanto così si ritroverà una crescita solida, dunque un risanamento e una stabilità durevoli e dunque dobbiamo battere questa strada. Sulla carta naturalmente non può che aver ragione, ma il problema è che non viviamo in apnea, viviamo nel mondo reale dove ci sono i mercati che non lasciano il tempo di fare le riforme e di trovarne i risultati, cioè 4, 5, 6 anni. Nel frattempo attaccano, nel frattempo gli spread schizzano e i paesi che hanno alti debiti naturalmente si dissanguano e in questo modo non riescono più a uscire in nessun modo dalla spirale perversa nella quale cadono. Se si segue la politica, diciamo, monocolore della Germania, è questo il punto sostanziale. E dall'altra parte c'è invece un Hollande che vorrebbe naturalmente insistere al massimo sulla solidarietà e al minimo sul rigore e le riforme, e naturalmente sono due linguaggi che non si possono incontrare. I mercati non si accontenteranno però di un pacchetto crescita? Ma io penso di no, vorrei tanto di sì, ma penso di no, nel senso che non ci sarebbe nulla di sostanzialmente nuovo. Il pacchetto crescita certamente è un gesto, è un buon gesto, ma non risolve i problemi della crescita europea, non può risolverli per definizione, strutturalmente, e quindi ha bisogno di tempo la crescita, ha bisogno di riforme e quindi ha bisogno appunto di quella solidarietà che permetta all'Europa in difficoltà, all'Europa del Sud, di vivere e sopravvivere in questi anni difficili senza scatenare rivolte popolari, instabilità politiche che sarebbero assolutamente letali per la tenuta dell'euro. Sergio, a margine del vertice si è tenuto l'Euro Working Group, il gruppo di lavoro che prepara l'Eurogruppo. Per l'Italia c'era il vice ministro dell'economia Vittorio Grilli. Si è saputo qualcosa? No, al momento ancora no, anche perché queste sono riunioni poi a livello, come dire, di Sherpa o comunque estremamente riservate che devono di fatto risolvere i problemi tecnici più grossi e poi trasmettere ai capi di Stato. In qualche modo probabile anche ritenere che questo il lavoro di questo working group poi di fatto costituirà la base per la discussione, si prevede, notturna dei capi di Stato e di Governo. Bisogna si andrà avanti a oltranza. Il rischio è quello, bisogna dire che di fatto i problemi sono due da risolvere dopo il varo del pacchetto alla crescita. Se fare un'unione bancaria, e su questo il consenso è maggiore, ma soprattutto in qualche modo come varare misure urgenti da una parte, come richiesto da Italia e Spagna e anche dalla Francia, e vincere la resistenza tedesca di fare concessioni su queste misure urgenti in cambio di una maggiore integrazione, di fatto cedere sovranità a Bruxelles, aumentare integrazione europea. Come diceva Adriana poco fa, la posizione tedesca di fatto non è cambiata, si chiede una maggiore integrazione europea sul lungo periodo, cedere sovranità, cedere a Bruxelles il controllo, in cambio poi di qualcosa, si spera prima che il prima possibile, su questo Berlino non è forse così disposta a concedere. Adriana, prima stiamo chiudendo, però volevo chiederti, domani Merkel dovrà presentarsi al Bundestag senza probabilmente il sì italiano alla Tobin Tax. Sarà imbarazzante per la cancelliera? Beh, non mettiamo il carro davanti ai buoi, bisognerà vedere che cosa succede nei negoziati tra stanotte e domani. In fondo nessuno ha interesse a una rottura, anche questo sarebbe tragico per i mercati, e aspettiamo di vedere che cosa succede. Certo, diciamo che Monti ha fatto la voce grossa, e giustamente, anche perché su questo no sul suo meccanismo anti-spread è in fondo un no un po' isterico, un po' ideologico, non è un no giustificato dai fatti. Quindi vedremo se nella notte si arriverà a più miti consigli. Grazie Adriana Cerretelli del Sole 24 Ore da Bruxelles, Sergio Nava, nostro inviato a Bruxelles. Io ringrazio in regia Paolo Corleoni, in redazione Mauro Del Corno e Barbara Bianchi, Focus Economia e Sebastiano Barisoni tornano domani. Radio 24, la passione si sente.